Un mistero che somiglia alla realtà, un caos che parla di città, linguaggi e contraddizioni. Uno dei libri più emblematici e affascinanti del Novecento, quel pasticciaccio brutto di via Merulana, analizzato per Echi di carta da Giuseppe Schiavello. Gadda è stato uno degli autori più importanti del secolo scorso. È nato a Milano nel 1893 e ha avuto una vita piuttosto difficile, segnata da problemi economici e personali che hanno influito molto sul suo modo di vedere il mondo. Era laureato in ingegneria e per molti anni ha svolto lavori diversi prima di dedicarsi più seriamente alla letteratura. Questa formazione tecnica, unita al suo carattere inquieto e riflessivo, si ritrova chiaramente nelle sue opere, che sono spesso complesse, dense e volutamente difficili. Gadda è morto a Roma nel 1973, lasciando un'eredità letteraria fondamentale per capire la narrativa italiana moderna. Quel pasticciaccio brutto di via Merulana viene pubblicato in volume nel 1957, anche se in realtà era già uscito a puntate tra il 1946 e il 1947. Già dal titolo si capisce che non sarà una lettura semplice. La parola pasticciaccio suggerisce subito confusione, disordine, qualcosa che non si riesce a sistemare del tutto. Ed è proprio questo il cuore del romanzo. La storia è ambientata a Roma negli anni 30, in piena epoca fascista, e almeno all'inizio sembra un classico romanzo giallo. In un palazzo di via Merulana avvengono prima un furto e poi un omicidio, e le indagini vengono affidate al commissario Ingravallo. La vittima è Liliana Balducci, una donna dell'alta borghesia romana, sposata ma senza figli, che vive in un ambiente apparentemente ordinato e rispettabile. Liliana è una figura complessa e fragile. Il suo matrimonio è freddo e privo di un vero legame affettivo. E l'assenza di figli rappresenta per lei una profonda sofferenza. È una donna malinconica e inquieta, ma anche generosa, soprattutto verso le persone più umili. In particolare si affeziona a giovani donne in difficoltà, come Assunta, accolta in casa quasi come una figlia. Questo desiderio di affetto e protezione crea però una rete di rapporti ambigui che finirà per intrecciarsi con il delitto. Attraverso Liliana Balducci, Gadda mette in luce il disagio di una donna prigioniera di un modello borghese rigido e soffocante, tipico dell'Italia fascista, che impone ordine e rispettabilità, ma nasconde profonde fratture interiori. La sua vicenda personale riflette il contrasto tra l'ordine imposto dal regime e il caos reale della vita quotidiana. Andando avanti nella lettura, ci si rende conto che il mistero non è davvero la cosa più importante. Il giallo diventa quasi una scusa. A Gadda non interessa tanto scoprire il colpevole dell'omicidio di Liliana Balducci, quanto mostrare la complessità della realtà, fatta di eventi che si intrecciano e di cause che non sono mai una sola. Uno degli elementi che rende il romanzo più impegnativo è sicuramente il linguaggio. Gadda mescola italiano colto, dialetto romano e termini tecnici, costruendo frasi molto lunghe e non sempre facili da seguire. All'inizio questo stile può scoraggiare, ma è una scelta precisa che permette all'autore di rappresentare la varietà speciale e culturale della Roma dell'epoca. Anche il commissario Ingravallo è un personaggio particolare. Non è il classico investigatore che arriva a una verità chiara, ma un uomo che riflette molto e che vede ogni delitto come il risultato di una rete di fattori sociali, psicologici e storici. In questo modo, Gadda critica indirettamente la società del suo tempo e l'Italia fascista, senza mai farlo in modo esplicito. Passando alle mie considerazioni personali, devo dire che quel pasticciaccio brutto di via Merulana non è stato un romanzo facile. In diversi momenti ho fatto fatica ad andare avanti. Lo stile complesso e il linguaggio denso rendono la lettura lenta e a tratti frustrante. Tuttavia, proprio questa difficoltà rende il romanzo diverso dagli altri. Leggendolo, ho avuto la sensazione che Gadda volesse mettere alla prova il lettore, costringendolo a fermarsi e a riflettere. È un libro che non offre risposte semplici e che mette in discussione l'idea di una realtà ordinata e facilmente spiegabile. Al contrario, mostra un mondo confuso e contraddittorio, in cui tutto è collegato. Alla fine, anche il delitto di Liliana Balducci passa in secondo piano. Resta irrisolto e diventa un pretesto per parlare della complessità della vita e dell'essere umano. Ed è proprio questo che rende il romanzo così attuale. In conclusione, quel pasticciaccio brutto di via Merulana è un romanzo difficile ma fondamentale. Non dà soluzioni definitive e può lasciare il lettore spiazzato, ma invita a guardare la realtà in modo più critico e consapevole. Gadda sembra dirci che il mondo non segue un ordine preciso e che, proprio come suggerisce il titolo, la realtà è spesso un grande e complicato pasticcio.